Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Accadeva in Italia 30 anni fa, proprio nel 1977. Tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977 nasce in Italia un movimento magmatico formato da migliaia di persone che non si riconoscono nei partiti della sinistra tradizionale, in particolare il Partito Comunista Italiano guidato da Enrico Berlinguer. Non c'è un'organizzazione centrale. Al movimento aderiscono comitati di quartiere, collettivi studenteschi e operai, gruppi della sinistra extraparlamentare, come Lotta Continua. Il primo scontro avviene il 1 febbraio 1977. Un gruppo di iscritti al Fronte della Gioventù e del FUAN, organizzazioni del movimento sociale italiano, attaccano studenti di sinistra riuniti in assemblea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma. Lo studente Guido Bellachioma viene ferito alla testa in modo grave. Poche ore dopo, gli autonomi assaltano la sede Missina di via Somma Campagna a Roma. Il corteo viene disperso dalla polizia, che ferisce gli studenti Paolo Tommasini e Leonardo Fortuna, detti Paolo e Dazzo, poi incriminati per tentato omicidio nei confronti dell'agente Domenico Arboletti. La contestazione è contro la cosiddetta politica dei sacrifici, teorizzata dall'allora segretario della CGIL Luciano Lama e dal compromesso storico con la Democrazia Cristiana messo in pratica in quegli anni da Enrico Berlinguer. Il 17 febbraio 1977, gli autonomi assediano il palco allestito per il comizio dell'allora segretario della CGIL Luciano Lama all'Università di Roma. Violentissimi scontri tra studenti e operai del servizio d'ordine del PCI si susseguono per ore. Alla fine, il Dodge rosso che serviva da palco viene ribaltato. Lama è costretto a fuggire stretto da un fitto cordone di militanti del PCI e della CGIL. È il primo forte strappo tra il movimento e la tradizione della sinistra storica. La rivolta si sposta nei giorni successivi nelle piazze e lungo le strade del paese. Università e scuole medie superiori restano occupate. Cortei si susseguono nelle principali città italiane. Undici marzo 1977, ore 10. All'Università di Bologna è programmata un'assemblea di comunione e liberazione. Un gruppo di autonomi entra nell'Ateneo e cerca di interrompere il convegno. Intervengono polizia e carabinieri. Sotto il portico di via Mascarella avvengono gli scontri più cruenti. I carabinieri sparano. Cade a terra, colpito a morte, il militante di Lotta Continua, Francesco Lorusso. La notizia della morte del giovane compie il giro della città. La sera al Teatro Odeon di Bologna si tiene l'assemblea del movimento. Noi a Roma dobbiamo essere in tanti, e noi dobbiamo cercare di essere in tanti perché a Roma prima di tutto che si giocano i rapporti di forza, che a Roma che noi dobbiamo andare a praticare degli obiettivi chiari per riuscire a ribaltare e a incasinare ancora di più questa situazione. Roma, 12 marzo 1977. È in programma la manifestazione nazionale del movimento. Almeno 100.000 persone giungono da ogni parte del paese. Affrontano lunghi viaggi con i treni locali dal sud al nord. L'autonomia è presente in forze. I gruppi della sinistra extraparlamentare aderiscono, ma con molte riserve. Gli autonomi erigono barricate ovunque, molotov con gipponi e macchine della polizia. Un pezzo del corteo tenta l'assalto della sede della Democrazia Cristiana, in Piazza del Gesù. Per ore, gli scontri coinvolgono l'intera città. Il 12 marzo 1977, la scena si sposta da Roma a Bologna. Proprio in quelle ore, Bologna è sconvolta da gravi incidenti. Vetrine infrante,

Intanto un corteo chiede la scarcerazione dei responsabili di Radio Lice e degli autonomi arrestati tra l'11 e il 12 marzo dopo la morte di Francesco Lorusso. Non c'è ragione perché stiano in galera solo loro, o tutti dentro o tutti fuori. Il complotto va colpito alla radice, oppure lo Stato democratico deve confessare la sua impotenza. Chiediamo che giustizia sia fatta e che il potere si assuma le sue responsabilità. Il complotto non cova solo a Radio Alice, cova all'università, cova nelle librerie, cova nelle menti. Bisogna chiudere tutto. Si esprime con mano, libri, lingue e radio. Bisogna bruciare i libri, tagliare le mani e le lingue. L'obiettivo numero uno del movimento è il sindaco di Bologna, Renato Zangheri, esponente di punta dell'ala riformista del PC. Ci fu questo appello ad una grande raccolta, ad una grande adunata di persone, di giovani, specialmente da tutta Europa, vengono specialmente dalla Francia, per contestare la repressione che veniva impersonata nei dirigenti comunisti e nel comune e nelle altre istituzioni locali. Questi giovani pensavano di venire alle mani, invece vennero a fare un viaggio che nel settembre fu un viaggio piacevole. I ragazzi bivaccavano sotto il comune, aiutavano, si baciucchiavano, facevano quello che fanno i ragazzi quando si sentono liberi di farlo, e non c'era nessuna repressione, anzi noi pregammo gli esercenti bolognesi di tenere aperti i bar, di tenere aperti i luoghi dove si potevano rifocillare questi ragazzi. La manifestazione fu una manifestazione più di gioia che di repressione, non fu represso per niente. E credo che questo rappresentò una svolta. Io poi conobbi delle persone, dei giovani, mi ricordo che una ragazza che studiava a Roma mi disse che era venuta a Bologna da Parigi per uno scontro contro di noi, e che però se n'era andata via ricevendo un'impressione favorevole all'accoglienza che era stata riservata a questi giovani che venivano da fuori. Certo, c'era stato il vulnus, la grande ferita, la scellerata ferita infertaci con l'uccisione di Lorusso, e noi, come era naturale, non c'è bisogno di dirlo, protestammo per questo, ma non ne facemmo un'occasione di inasprimento dei rapporti fra parti della gioventù, fra giovani propensi a menare le mani e che giravano col segno della P38 alzando il braccio, e invece quelli che volevano soltanto protestare, volevano soltanto prendere posizione, volevano soltanto essere presenti e farsi sentire. Questo è un diritto, non è una concessione che si possa fare o non fare, è un diritto che tutti hanno. In generale io non sono affatto del parere che si debbano reprimere le manifestazioni giovanili studentesche. Una guerra senza frontiere si combatte per le vie di Roma. Chi porta blu jeans e capelli lunghi non può passare in certe zone. La città è divisa dai colori nero e rosso. Si sa che al Parioli ci sono i fascisti duri. A Prima Valle, Cinecittà, San Lorenzo, i rossi sono più forti. I neri di Monteverde, Balduina, Prati, Eur sono i più pericolosi. Balduina, 30 settembre 1977. Scontri tra rossi e neri si ripetono fino alle 20. A quel punto Cristiano Fioravanti, fratello di Giusva Valerio Fioravanti, e Alessandro Alibrandi estraggono una pistola e colpiscono il militante di Lotta Continua, Walter Rossi. Il benzinaio Giuseppe Marcelli viene ferito in modo grave. Trent'anni dopo, l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga fa marcia indietro. Nel 1977 sbagliai a rispondere con i blindati alle violenze degli autonomi. Il suo ragionamento è diverso da quello del passato. Secondo Cossiga, la risposta dura dello Stato favorì lo sfaldamento del movimento del 77, che si sciolse nel settembre di quell'anno durante il cosiddetto convegno contro la repressione. Ma molti giovani entrarono nelle file del terrorismo, in particolare nei due gruppi più organizzati, Brigate Rosse e Prima Linea. Ma sull'omicidio di Giorgiana Masi, una delle pagine nere del 1977, restano i dubbi sull'operato delle forze speciali. Francesco Cossiga la pensa così. Ecco, e quello credo che io non lo dirò mai, anche se mi dovessero chiamare da volta l'autorità giudiziaria. Perché fu un magistrato che condusse l'inchiesta, che mi insegnò questo dubbio, lo insegnò a me, ad un altro personale di polizia. Insomma, sarebbe una cosa molto dolorosa. Perché sono coinvolti i servizi? No, non sarebbe dolorosa. Il passato dunque non passa, mentre ognuno offre, ancora oggi, il suo resoconto personale degli anni più bui della Repubblica. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline di Biacchessi @radio24.it.